Capitolo 2. Il regno di Dio. Marzo 1949. Avevo sempre considerato i missionari persone superiori, nel senso dato da Confucio a tale termine, e avevo creduto che il loro capitale di bontà, benevolenza e sapienza fosse molto superiore al normale. Fu quindi con vero sollievo che li trovai invece esattamente come gli altri, ben intenzionati, zelanti, lavoratori, ma non dotati di maggior saggezza e virtù di chiunque altro. Il loro orizzonte non era più ampio del normale e non sempre si rivelavano molto tolleranti. Insegnare la Bibbia era il loro mestiere, così come la medicina era il mio, sebbene entrambe queste professioni si illudano di essere vocazioni. Come tutti gli altri esseri umani, anche loro avevano i loro crucci riguardanti la famiglia, la casa, la sicurezza, l'assicurazione sulla vita, i salari, le pensioni, le vacanze e tutto il meccanismo dell'esistenza. In quei primi mesi del 1949 essi apparivano sconcertati, confusi e indignati. Ciò che stava accadendo in Cina era assolutamente inaspettato. Alcuni affermavano che si trattava soltanto di una fase di violenza passeggera, simile a quelle esplosioni di xenofobia che rompono di tanto in tanto in Cina. Altri propendevano a credere che il governo del Kuomintang avrebbe finito col vincere se avesse messo in atto le riforme anziché limitarsi a proclamarle. Il fatto che le genti di Chiang Kai-shek fossero cristiane sembrava garantir loro che il governo del Kuomintang avrebbe potuto ravvedersi e che tutto sarebbe andato a posto. Forse coloro che avevano compreso l'irrevocabile evoluzione in atto erano rimasti in Cina finché avevano potuto, ma personalmente non ero affatto convinta dall'atteggiamento mentale che mi rivelavano i profughi di Hong Kong. Le loro reazioni erano quelle di persone sconcertate e offese, poste bruscamente di fronte alla realtà di un amore non corrisposto. Dopo quello che abbiamo fatto, come ci ricompensano? Pareva pensassero. Quanto deve essere difficile diventare missionari. Per poter convincere gli altri bisogna essere ben certi della superiorità del nostro credo e, d'altra parte, comprensione, tolleranza e perdono verso il nostro prossimo risultano incompatibili con la consapevolezza di possedere una verità più alta, una miglior spiegazione della vita spirituale. Vi erano due tipi di missionari a Hong Kong. I primi, da poco in Cina, erano ancora sotto il dominio del loro stretto fanatismo dogmatico e portavano con sé una buona dose di zolfo infernale e di dannazione da riversare sui pagani. Spiritualmente intolleranti e fisicamente bigotti, tendevano a sperare nel martirio e ad esagerare le persecuzioni di cui erano oggetto. Ma questi erano ben pochi. Gli altri, assai più simpatici, erano più umani, più tolleranti e dotati di un certo senso dell'umorismo. In silenzio e senza troppa difficoltà si erano scrollati di dosso l'idea dell'infallibilità del loro schema di salvezza eterna, insieme con l'aspetto più adirato del Dio che professavano di amare, e il loro interesse si era concentrato sulla realizzazione pratica e sociale del cristianesimo. Erano umanisti e sociologi, per cui la religione consisteva nel fabbricare ospedali e scuole, nella creazione di associazioni cristiane, nella tutela degli orfanelli abbandonati. Ma appunto perché avevano tanto amato il loro lavoro, al quale si erano dati anima e corpo, erano i più amareggiati da quello che avveniva. Che sarà delle nostre comunità cristiane? Molti dei nostri convertiti sembrano essere passati al nuovo regime, ma alcuni no. Saranno perseguitati. Che succederà alle nostre scuole, ai nostri ospedali, alle nostre chiese? Avrebbero voluto aiutare la Cina, e invece venivano sospettati e frustrati. Erano i loro sforzi verso la conciliazione e la comprensione reciproca. La Cina li cacciava, considerandoli ormai indesiderabili. Di tutto questo avevo discusso una sera con un gioviale omaccione di cui non ho mai saputo il nome e che si era fermato all'ostello in attesa di imbarcarsi per l'America. Aveva i modi allegri e scherzosi del predicatore estroverso e chiacchierammo a lungo a un tavolo della latteria, centellinando un gelato di noci e cioccolata. Scoprii che prima di divenire perito agricoltore era stato missionario. Quante conversioni avete operato? Gli chiesi. Autentiche conversioni, intendo. Oh, credo una sola. Gli altri si fecero cristiani soltanto per interesse. L'omaccione moriva dalla voglia di parlare con qualcuno che lo stesse a sentire, ed io sono una buona ascoltatrice. Sono convinto che, sebbene molti di noi parlino il cinese, e sebbene alcuni possano anche acquistare quella che viene comunemente definita una conoscenza intellettuale della Cina, rimarremo sempre ignoranti della struttura emotiva della vostra gente e delle reazioni che provochiamo. Il fatto stesso di aver avuto un'educazione missionaria non ci permette di acquistare quello che voi cinesi chiamate cuore comprensivo. Protestai, asserendo che secondo me si trattava unicamente di una questione di linguaggio. Siete troppo convinti che tutti gli uomini intendano la stessa cosa usando le stesse parole. Egli annuì. Forse è vero. Io stesso non tardai ad accorgermi di non saper più quello che intendessi parlando di Dio e del Verbo di Dio. Lo sapevo quando ero a casa mia, ma in Cina il significato svanì gradualmente dalle parole. Non sono mai stato sentimentale nei riguardi della Cina, come lo sono molti americani ed europei, e non ho mai amato i miei cristiani quanto i pagani convinti. Per questo dovetti smettere di predicare. Non mi fu facile demolire la mia fede e passò molto tempo prima che potessi vedere la verità e abbandonare quindi la missione. Comunque credo di aver avuto ragione, poiché sono fra i pochi a non sentirmi né ferito né urtato da quanto sta accadendo. Che altro ci si poteva aspettare dai nostri insegnamenti? Noi stessi abbiamo abbinato il Cristo all'emancipazione delle donne, alle riforme sociali, alla costruzione di ospedali. Noi stessi abbiamo preparato il terreno e innaffiato i semi di quel tremendo potere che governerà la Cina e renderà incredulo il mondo. Siamo stati noi, missionari, non Marx né i russi. Siamo stati noi con le nostre scuole e università, con le nostre associazioni di giovani cristiani. Il comunismo è venuto dopo. Si è preso il potere e la forza che noi avevamo risvegliato e ha dato loro un nome e una forma, poiché noi non avevamo più nulla da offrirvi. Noi abbiamo dato alla vostra gioventù cinese l'abitudine di riunirsi in gruppi. Noi abbiamo deriso e calpestato la vostra riservatezza e il vostro odio delle masse. Noi abbiamo strappato dalle loro rime i vostri dotti per abituarli a usare lingua e penna per il bene di milioni anziché per la delizia di pochi. Nel centro o nelle vicinanze delle vostre città operose e popolate abbiamo fatto sorgere le grandi università con le loro agitazioni e il loro malcontento. Vi abbiamo strappati dalle vostre case e avviati come mandrie nei dormitori comuni. Abbiamo sviluppato in voi lo spirito della comunità. Vi abbiamo insegnato a giocare tutti insieme e a riposarvi cantando in coro. Vi abbiamo instillato il senso del dovere verso il vostro paese fino a inculcarvi l'idea di volerlo salvare. L'educazione che vi abbiamo data vi ha tagliato fuori dalle vecchie tradizioni, facendo dei vostri spiriti sradicati un terreno adatto a ricevere la più grandiosa e più vaga dottrina di cui si conforti l'umanità. Vi abbiamo insegnato una quantità di parole astratte che non esistevano nella vostra lingua: democrazia, libertà, uguaglianza, e ciò senza curarci di scoprire quello che significavano per voi e nemmeno per noi stessi. Vi abbiamo parlato di educazione delle masse e dell'abolizione dell'ingiustizia. Oggi le vostre idee politiche possono essere marxiste, ma il fervore e la fede che vi hanno spinti avanti hanno le loro radici nel nostro cristianesimo sociale. Le nostre associazioni cristiane erano all'avanguardia di tutti i movimenti per la libertà e la giustizia sociale in Cina. Tutti i vostri rivoluzionari hanno avuto contatto con i nostri insegnamenti e molti dei vostri capi comunisti sono cristiani. Vi abbiamo insegnato la potenza delle masse e vi abbiamo armati di idee sociali e voi avete fatto la rivoluzione. Come il cristianesimo, il comunismo aspira a un paradiso, vuole avere in terra quello che noi speriamo di avere in cielo e vorrebbe creare un perfetto meccanismo di vita, eliminando il bisogno e il pericolo. Mediante le preghiere e le buone opere, il cristiano si prepara alla felicità e la sicurezza dopo la morte. Il comunista sostituisce semplicemente la parola eternità con futuro e la parola peccato con imperialismo o capitalismo. Il comunista vive nella fede dei valori dell'uomo e nella speranza del futuro, così come il cristiano vive nella fede di Dio e nell'amore del prossimo. Il volto rotondo e gli occhi azzurri dell'omaccione sembravano fissare quel futuro che gli disapprovava. Sì. Vi abbiamo parlato del regno dei cieli e ora voi tentate di portarlo in terra. Ci avete colto in fallo. Avete scoperto quale importanza le azioni cristiane diano al successo e al benessere mentre voi additavamo i tesori del cielo. I missionari non torneranno più in Cina, poiché le missioni vi sarebbero adesso anacronistiche quanto i piedi fasciati. Noi apparteniamo allo stesso mondo morente del colonialismo. E siamo altrettanto putrefatti. Non serve cercare di illuderci. Abbiamo fatto il nostro lavoro e adesso dobbiamo andarcene. Alcuni continueranno a tener duro, ma alla fine anch'essi dovranno rassegnarsi. Le missioni della Cina interna resisteranno probabilmente un po' più a lungo e la Chiesa Cattolica più di tutti. Oltre all'agricoltura, di che vi occupate? Chiesi. Egli capì subito che cosa intendessi dire. Sto cercando di comprendere che cosa significhi per me il verbo divino, mi rispose. È una cosa così immensa. E ora mi sembra che il più importante sia di capire me stesso, non di insegnare agli altri. Ma su questo argomento era reticente e passammo quindi a parlare di me, poiché è pericoloso scandagliare troppo a fondo l'anima umana. Che intendete fare? Mi chiese. Andrò in Cina a esercitare la medicina, non perché sia comunista, ma perché sono cinese. Badate a non innamorarvi e a non sposarvi se rimarrete a Hong Kong per qualche tempo. Ah, non c'è pericolo. Tra 2 mesi sarò rinchiusa all'ospedale e d'altronde non mi interessa che la medicina. Sono stata sposata per 8 anni e tanto dovrebbe bastare a qualsiasi donna in questi tempi di guerra. Non bisogna volere troppo. Ma voi siete giovani. E avete ancora molto tempo davanti a voi. Ma sono anche vedova, e in Cina, come sapete, le vedove non dovrebbero risposarsi. D'altronde, non ci tengo ad avere ancora contatti con un altro essere umano. Sono veramente al di sopra di ogni tentazione, poiché il mio cuore è morto. Bene, ciò vi semplifica la vita. Ma non ne sarei troppo sicuro se fossi in voi. Hong Kong è uno strano luogo. È come essere su una nave e a bordo non si sa mai che cosa possa accadere. Comunque, auguri. Speravo tanto di incontrarlo di nuovo, poiché mi era piaciuto il suo modo di pensare e anche perché aveva avuto ragione a mettermi in guardia riguardo a Hong Kong, ma non lo rividi mai più. Capitolo 3. Ricchi e poveri. Aprile 1949. Facciamo una passeggiata, mi disse Liu Sico. La sua idea di una passeggiata è quella di gironzolare per i magazzini delle 2 vie principali della città e di finire il pomeriggio in uno dei cinematografi ad aria condizionata. È una bellissima giornata piena di sole e tira un'arietta inebriante. Facciamo 4 passi, propongo. Dall'ostello religioso, sotto il cui portico assolato Helen Parrish e Mrs. Thrale sorvegliano i bambini che giocano, ci avviamo verso i giardini botanici, trascinandoci dietro i nostri 3 figli e Susie, l'alsaziano. Qui i bambini si fermano sotto le felci giganti e Lucy li fotografa. Poi ci arrampichiamo su per la strada alta, raggiungendo il sentiero che risale la collina. Sotto di noi l'università sparpaglia i suoi diversi edifici di mattone e pietra e, parallelamente alla spiaggia, la città distende i suoi tetti grigi. Più lontano è il porto azzurrino con le sue navi fra l'isola e la città di Kowloon. E in distanza le colline nude di Kowloon si ergono come una barriera fra la colonia e la Cina invisibile alle loro spalle. I bambini contano le navi, mentre Lucy, Susie ed io cerchiamo di riprendere fiato. Le grandi navi rassomigliano a scarafaggi distesi supini, con gli alberi, i fumaioli e le gru come membra uscenti dal loro ventre. I sampan si aggrappano al loro corpo, simili a formiche, rosse brulicanti intorno a un insetto morto. Uno yacht tutto bianco scivola pigramente accanto a un incrociatore grigio. Le tozze navi traghetto scavano il loro tenue solco fra l'isola e Kowloon. Il battello di Macao taglia le onde docili con una forbice in un tessuto di seta. Grandi giunche, dalle vele a strisce rosse e brune, avanzano faticosamente arando il mare azzurro. 84 navi, dichiara May, mia figlia. Ne ho contate 84 e incomincia a contare le giunche. Lucy è stanca e decide di accompagnare i bambini a pranzo. Nel pomeriggio li porterà al cinema. Rimango sola, avvolta nel calore del sole, col cielo come baldacchino e le colline come culla, felice di poter vagabondare per conto mio guardando Hong Kong. Ovunque si sta fabbricando. La popolazione di Hong Kong è quasi triplicata ed è un continuo fluire di nuovi arrivi, circa 10.000 ogni settimana. Giorno e notte è un susseguirsi di scoppi, del pesante pulsare delle macchine perforatrici e del tonfo dei picconi. Anche le tranquille colline vengono prese d'assalto, poiché è qui che i ricchi costruiscono le loro case. Prima di poter iniziare qualsiasi lavoro di costruzione, bisogna aprirsi una strada nel cuore della collina e la cima deve essere livellata per potervi scavare le fondamenta. Il lavoro ferve, i numerosi punti sparsi all'intorno. Lunghe file di donne Hakka, col loro caratteristico cappello di paglia nera senza cupola, dalla tesa frangiata di stoffa nera, portano via la terra, un cesto dopo l'altro. La cima della collina viene smangiata lentamente e la terra compare. Brillante macchia d'ocra nel verde dei cespugli. Qua e là, sulla superficie di questa macchia, le donne formano coni di terriccio simili a dita che puntino al cielo e la cui altezza darà la misura del lavoro svolto, indicando la paga loro dovuta. Poi la superficie viene battuta coi piedi nudi e si incominciano a porre le fondamenta. Molti alberi sono stati tagliati e le piogge estive, non più trattenute, fanno cadere grosse frane. La roccia nuda, esposta all'acqua e cotta dal sole, si sbriciola alla minima pressione e le case devono quindi posare su di una larga base piramidale di pietra o di cemento. Tale base massiccia, spesso a due o a tre piani, termina con una terrazza pavimentata o tenuta a giardino, sulla quale si erge la casa. La cinge un parapetto portante dozzine di grandi vasi di fiori che vengono cambiati a ogni stagione. Crisantemi e rosse celosie in autunno, caladioni, dalie e ibisco in inverno, camelie in primavera, garofani e gigli in estate. Alte, sui loro massicci piedestalli fra le palme, i frangipane e i bambù dei loro giardini e protette da fioriti bastioni, le case dei ricchi hanno l'incanto di antichi castelli. Le più vecchie, coi loro archi e le loro colonne, scurite e ammorbidite dall'umidità e dalla muffa, sembrano fondersi con la collina stessa. Quelle nuove, non ancora smussate dal tempo e dalle stagioni, spiccano sfacciatamente, rosa e bianche, nel sole abbagliante. Qua e là sorgono gli isolati degli appartamenti destinati agli impiegati governativi europei. Costruiti con monotona regolarità e artificiosamente semplici, sembrano scatole di biscotti a 6 o a 8 piani e il loro sgargiante biancore domina la grigia città sottostante. Isolati dello stesso genere, ma meno massicci, spuntano a dozzine nelle nuove aree fabbricabili della città in continua espansione. Sono destinati ai cinesi, che continuamente fluiscono da Shanghai e che fanno di questi rioni una copia in miniatura delle loro tumultuose città. Più oltre, sui pendii sovrastanti Causeway Bay, intorno a Mount Davis e sulle colline di Kowloon, si raggruppano le capanne di legno dei profughi. Prive di impianti sanitari e di acqua corrente, sono divise l'una dall'altra da sentieri così stretti che i tetti spioventi si toccano. L'unica fonte d'acqua per un agglomerato di 200 capanne è data da un rubinetto posto a un quarto di miglio di distanza su per la collina. disordinatamente, ammucchiate una sopra l'altra, aggrappate al scivoloso pendio, col pericolo di venire spazzate via dalle piogge, sempre sotto la minaccia di essere demolite per ragioni di igiene pubblica. Poche migliaia di capanne offrono rifugio a molte decine di migliaia di persone. Il governo della colonia non può fare di più, poiché altre migliaia di profughi varcano il confine ogni settimana. Le capanne dei profughi diramano le loro radici per l'intera colonia. Tenute lontane dal centro, dal timore della demolizione, si annidano ai piedi delle colline, alla periferia. Si acquattano sulla soglia delle case dei ricchi, si insinuano fra gli isolati degli impiegati governativi e le strade affollate, e si allineano lungo le strade ordinate dove le Buick, ultimo modello, scivolano silenziose verso le spiagge. Uno dei campi di profughi si appiatta accanto alle lussuose stalle dei cavalli da corsa. In nessun altro luogo esiste una tale mescolanza di squallore e di ricchezza, di miseria e di ostentazione. È soltanto qui che i ricchi e i poveri vivono in rapporti di buon vicinato a portata di vista, di udito e di odorato. Vi sono due tipi di strade a Hong Kong, le belle strade asfaltate che corrono parallele alla spiaggia, ricche di negozi affollate di splendide macchine, e quelle strette e ripide che le intersecano. Nelle prime si possono trovare i prodotti di ogni parte del mondo, poiché tutto passa da Hong Kong e il porto è pieno di navi che ne scaricano a profusione. Qui si può comperare di tutto, è il motto della colonia. E si trova effettivamente di tutto, dall'aeroplano da combattimento all'ultimo profumo parigino. Non esistono limiti. E ora che i ricchi sono giunti da Shanghai, circola molto capitale e si è instaurata un'epoca di prosperità. Superficialmente Hong Kong è davvero abbagliante di prosperità. I ricchi vi hanno portato il loro denaro e non fanno economia. I negozi sono zeppi di tutto quello che i ricchi possono desiderare ed essi preferiscono i prodotti americani, pratici, eleganti e multicolori. Macchine fotografiche, costumi da bagno, rossetti, orologi, scarpe, nylon, seta e broccati, profumi e calze si ammucchiano sui banchi di vendita dei negozi. Hong Kong è il paradiso dei compratori. Simili a stormi di gabbiani, le ricche cinesi vanno da un negozio all'altro facendo tintinnare i braccialetti che portano ai polsi. Le loro mani, dalle lunghe unghie scarlatte, si immergono nelle sete e nei velluti, nei broccati e nei rasi. Commesse cantonesi e commessi indiani svolgono dinanzi a loro una pezza dopo l'altra di raso iridescente e si drappeggiano sete lucenti intorno alla persona perché le clienti possano ammirarle meglio. Le donne ricche affollano i negozi di giade e le gioiellerie. Si riuniscono nei saloni di bellezza, turbinano incerte dai rossetti scintillanti dei loro astucci d'oro ai profumi Chanel e alla chincaglieria fantasia. E comprano, comprano sempre, rumorose, rapaci e annoiate. Intorno all'Hong Kong Hotel, nel quartiere inglese degli affari, i marinai americani passeggiano, fischiano per fermare un taxi e si fanno lucidare le scarpe dai ragazzini. Al loro braccio si aggrappano volgari prostitute cinesi. Turiste in abiti da sole ammirano la biancheria di seta ricamata e le opulenti vesti cinesi. A gruppetti di due o tre, commercianti e banchieri discutono sottovoce di affari, sfoggiando completi estivi e vistose cravatte americane. Dal taschino della giacca spunta l'inevitabile Parker 51. Soldati del Kuomintang, sporchi e laceri, si appoggiano alle grucce o ai muri e seguono il viavai della città con aria minacciosa. Sotto i portici, ai lati delle strade, fluisce la corrente strepitante e urlante dell'umanità anonima di Hong Kong. Nonostante l'aria di ostentata sicurezza, ognuno si sente di passaggio e vanta la sua origine in un villaggio della Cina meridionale, rifiutando di appartenere alla colonia, mantenendo il suo stato di provvisorietà anche quando vi abita da molti anni, quando i suoi figli vi sono nati e a volte persino quando vi è nato lui stesso. Con poche eccezioni, tutti quelli che vi giungono si considerano di passaggio. I poveri abitano nelle strette strade a gradini del quartiere cinese e pochi sono quelli che vi si avventurano. Sono strade sporche e puzzolenti, isolati di quattro piani dai traballanti balconcini di legno lungo i quali la biancheria viene messa ad asciugare. Non esistono bagni, gabinetti, né cortili e una sola cucina comune serve per 20 famiglie. I piani sono divisi in cubicoli di circa 1,5 metri quadrato, in cui abitano 5 o più persone. I letti a cuccetta sono disposti l'uno sopra l'altro e di notte gli escrementi umani vengono posti fuori dalla porta per essere portati via. Sui gradini della strada, gli innumerevoli bambini dei poveri giocano nella polvere. Per le strade dormono i rifiuti della società che si nutrono di quello che riescono a trovare nella spazzatura degli alberghi. Una famiglia distende una stuoia fra il banco del ciabattino e quello del venditore di dolci e ne fa la sua casa. Qui, fra i piedi dei passanti, i rifiuti del mercato, 2 pomodori marci, una manciata di fagioli e un uovo rotto vengono offerti in vendita dai poveri a chi è più povero di loro. Al pari di esseri provenienti da differenti pianeti, invisibili l'uno all'altro, inconsci e indifferenti, i ricchi e i poveri si muovono, camminano gomito a gomito, si urtano, si evitano. I loro sguardi non si incontrano mai. Assorto nelle proprie preoccupazioni individuali, cosciente solo dei propri pericoli e delle proprie possibilità, teso alla ricerca della propria sicurezza, ognuno si muove nel proprio mondo e nega l'esistenza altrui, poiché riconoscerla inciderebbe sulla tenacia necessaria alla lotta per l'esistenza. In queste strade incontro la mia amica Ann Richards, giornalista americana, conosciuta a Chongqing 10 anni fa, rivista a Londra un ricevimento 5 anni fa. Tante sono le persone che dovrò incontrare ancora per caso, poiché le strade hanno per me uno strano fascino e mi perdo per ore a contemplarle. Venite con me all'ufficio immigrati, mi dice. Devo rinnovare il mio permesso di soggiorno. L'ufficio immigrati è situato in un antico edificio barocco della Praia, il grande viale del lungomare. I suoi muri non sono stati ridipinti da anni e i soffitti lasciano cadere scaglie d'intonaco sulla testa di chi attende tranquillamente sotto. È una delle cose più simpatiche degli inglesi, dice Ann. A differenza dei nostri, i loro importanti uffici amministrativi non sono incassati nell'acciaio e nel cemento armato, ammobiliati con imponenti scrivanie e sedie confortevoli, forniti di porte antisuono e collegati col mondo esterno da una fitta rete di telefoni. I loro dipartimenti di Stato funzionano come questo, in 2 o 3 stanzette oscure e sciatte dai pavimenti sconnessi, con porte che non chiudono perfettamente e un solo apparecchio telefonico antiquato e posto nel punto più scomodo della scrivania del capo dipartimento. E scoppiamo in una risata, osservando l'unico banco di legno che dovrebbe accogliere un'intera folla e sul muro la lunga striscia nera e unta, indicante tutte le teste che vi si sono posate. Schedari segnati urgente e non toccare si ammucchiano in disordine sulla mensola di marmo del caminetto. Impiegati cinesi in maniche di camicia battono meditabondi i tasti di arcaiche macchine da scrivere. 2 pacifici giovanotti in divisa di agente parlano a bassa voce coi visitatori. Tutto ispira una fiduciosa sicurezza, un'autorità che non ha bisogno di pompa. È così che si dovrebbe governare, secondo me, con umanità e bonomia, fra scrivanie traballanti, sedie sgangherate e schedari sfondati. Anne ed io siamo assai soddisfatte dell'ufficio immigrati. Il giovane poliziotto biondo ritorna verso di noi, stringendo il passaporto di Anne con la mano destra e un enorme timbro con la sinistra. Non siete missionaria, vero? Chiede. No, sono scrittrice. Allora sta bene, rinnoviamo il vostro permesso per 6 mesi. Ai missionari ne concediamo soltanto 3. Sono veramente troppi, 700 soltanto nei nostri registri. Venite all'ostello a fare la conoscenza di qualcuno di questi 700, propongo ad Anne. La sera si stende nel cielo in strisce grigie e dorate mentre Anne ed io ci dirigiamo verso l'ostello. Nell'atrio Mabel Chow mi sorride debolmente. Sembra stanchissima. Mi fa molto male la schiena, mi dice. Credo che il bambino stia per arrivare. Buona fortuna, le auguro. Liusiko e i bambini sono di ritorno dal cinema. Era ancora tutta roba d'amore, mi spiega May. A zia Lucy piace l'amore, amore, sempre amore. Intanto suona il gong per la cena e sfiliamo nella sala da pranzo col primo turno. Sembrano tutti in grande agitazione ed Ellen Parrish mi si precipita incontro. Dottoressa Han, vi presento mio marito. È arrivato questo pomeriggio col treno di Hankow. Stringo la mano di Half, alto, biondo e tranquillo. Hankow è caduta oggi e Mr. Parrish è partito la settimana scorsa, appena in tempo. Ha anche portato notizie del marito di Mary Fairfield. Ha deciso di rimanere e quindi Mary ritornerà in Cina, proprio come Dio le aveva detto. La serenità rende bello il suo viso ed io la guardo, stupefatta, poiché non mi ero mai accorta che fosse nemmeno graziosa. Ormai terremo duro finché non ci cacceranno via, dice in quel suo inglese strascicato che un tempo soleva irritarmi, ma che ora ha una nuova risonanza piena di dignità. Forse riusciremo a capire cosa sta succedendo quando saremo nuovamente in Cina. È solo lì che io sento di essere a casa mia e credo, sì, credo proprio che bisogna aver fiducia nel popolo cinese. Dopo cena, Han, Liusi ed io sediamo nella sala comune. Dalle finestre vediamo Hong Kong e lasciamo spaziare lo sguardo verso le colline dietro le quali si stende la Cina, invisibile ma sempre presente, la Cina che è la ragione per cui noi ci troviamo qui. Siamo qui tutti, banchieri, uomini d'affari, donne ricche, missionari e profughi. Quelli che portano via mezza collina per fabbricarsi una casa e quelli che si stringono su di una stuoia stesa a terra per dormirvi. Vagabondi per forza, siamo tutti profughi. E per me, di passaggio come tutti gli altri, questa è Hong Kong nell'aprile del 1949, un campo di profughi, porto di molte navi, rifugio degli scacciati dalla Cina, fiera dei baracconi, bazar e città al culmine della prosperità. Hong Kong, dove ognuno va e viene e fa conoscenze più superficiali che in ogni altra parte del mondo. Hong Kong, bellissima isola di molti mondi nell'abbraccio del mare, Hong Kong. Hong Kong e dietro alle colline la Cina.